vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 30 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.33 tramonterà alle 17.09. Martedì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Miccoli. Coltivare in modo professionale i ciliegi è uno dei possibili sbocchi per la frutticoltura regionale. Oggi il professor Raffaele Testolin, per la serie di approfondimenti sull'agricoltura che cambia anche in regione, dà le basi per chi voglia intraprendere questo lavoro. Cristina Micheloni, per la rubrica del bio, ci parla invece del ritorno della barbabietola da zucchero e dei suoi problemi e soluzioni per le infestanti. A seguire un'altra puntata sulla chiarificazione dei mosti con il professor Zironi, che spiega i concetti di enologia sottrattiva e enologia additiva. Vi state attrezzando per ripartire con l'orto? Vi serve sapere qualcosa in più sui terricci? Ve lo dice Sara Bosco, mentre Roberto Zottar fa la storia dei tramezzini proponendo una sua succulenta versione con il pollo, meglio se ruspante, del vostro cortile. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Proseguono i nostri approfondimenti sui comparti dell'agricoltura regionale. Oggi, in tema di frutticoltura, il professor Raffaele Testolin fa un quadro complessivo sulla moderna coltivazione del ciliegio professionale, che in regione ha una sua storia. Raccontando A Vita nei Campi, una frutticoltura per amatori, abbiamo anche detto che alcune specie da frutto sono interessanti per gli agricoltori friulani che vogliono dedicarsi professionalmente alla frutticoltura. Ecco allora la prima di queste specie, il ciliegio. Coltura di pregio del Coriziano e di gran parte della Pedemontana fino al Pordenonese, ha perso progressivamente di importanza 50 anni fa. Da qualche anno la coltivazione del ciliegio dolce è tornata interessante a patto che si adottino le innovazioni che rendono la coltura economicamente interessante. Portinnesti inanizzanti, varietà autofertili, impianti bassi e fitti, copertura antipioggia e occhio al mercato. A differenza della coltivazione di un tempo basata su piante a taglia elevata, oggi il ciliegio fatto su portinnesti deboli e sesti di impianto stretti entra in produzione al terzo anno e al quinto anno è in piena produzione. Vediamo brevemente i punti che qualificano una coltura del ciliegio moderna. Partiamo quindi con i portinesti deboli. Sì, Gisela o Gisela 5 e Gisela 6 sono i portinesti deboli selezionati in Germania che vanno per la maggiore. Permettono di piantare tra i 2 e i 4 metri sulla fila a seconda che si scelga la forma di allevamento a fusetto o a vaso. Si raccoglie tutto da terra o con un piccolo carro raccolta. È bene scegliere un certo numero di varietà a maturazione scalare, dalle precoci alle molto tardive. Così si allunga il tempo di raccolta e di vendita in azienda. Ricordiamo anche a chi va sul mercato, le varietà molto tardive sono le più interessanti per gli agricoltori friulani perché maturano in un periodo in cui la concorrenza del prodotto proveniente dal sud è ridotta. È preferibile scegliere varietà autofertili che producono più di quelle tradizionali. Tuttavia, se si coltivano varietà diverse, l'impollinazione incrociata garantisce la produzione anche nelle varietà che non si auto-impollinano. Le varietà buone sono tante, se volete. Qualche nome per coprire un mese circa di raccolta, eccone alcuni. Burlat è la più interessante tra le varietà precoci. Segue Sweet Arianna, 5 giorni più tardi. Grace Star 12 giorni, Giulietta 15, Black Star 17, Ferrovia 24, Lucrezia, Sweet Saretta e Cordia 25, Regina 31 ed è l'ultima. Se volete inserire due varietà locali interessanti, potete cercare Franciosca, non proprio locale ma coltivata da tempo nella zona del Collio Goriziano, e la Duracina di Tarcento. Un consiglio importante: prenotate le piante l'anno prima per essere sicuri di avere il portinnesto e le varietà desiderate. In altre parole, prenotate le piante quest'estate per metterle a dimora l'inverno che viene. È così che operano i professionisti. Avevamo parlato di densità e impianto di potatura. 5 metri tra le file è una distanza quasi obbligatoria per permettere il passaggio delle macchine. Sulla fila si può piantare a 2-3 metri e allevare le piante a fusetto. Oppure si può piantare a 3-4 metri sulla fila e allevare a vaso. Se non siete esperti, fatevi consigliare sia per la scelta delle varietà che per la disposizione delle piante, ma soprattutto fatevi consigliare per la potatura, soprattutto in fase di allevamento. Gli errori dei primi 2-3 anni sono fatali. Il ciliegio ha la brutta abitudine di vegetare nella parte alta dei rami ed è importante non assecondare questo comportamento, pena il dover andare in paradiso a raccogliere la frutta. Nuovo capitolo, almeno per la nostra regione, quello della copertura antipioggia. Non si può fare ciliegio professionale in Friuli, ma direi in tutto il centro e nord Italia, senza una copertura antipioggia. Tutti abbiamo fatto l'esperienza degli effetti dannosi delle piogge quando le ciliegie cominciano a prendere colore e a maturare. È sufficiente una pioggia in prossimità della maturazione e le ciliegie spaccano e marciscono in 2-3 giorni. Una delusione cocente per chi le ha in giardino, ma ancor più cocente per chi coltiva per vendere e vede svanire la possibilità di reddito dopo una primavera di attesa e soldi investiti. Di qui la necessità di coprire il frutteto con teli antipioggia. Per gli aspetti tecnici è necessario prevedere la copertura al momento in cui si fa l'impianto e affidarsi a ditte specializzate che forniscono l'impianto chiave in mano. Un altro consiglio: lasciate perdere per una volta il fasin di Bessoi e affidatevi a chi fa impianti e coperture di frutteti di mestiere. Chi produce ciliegie per professione e vuole essere di aiuto a chi intende iniziare può lasciare un contatto sul sito della trasmissione Vita nei Campi. Chi inizia l'avventura sarà certamente grato e magari nascono nuove amicizie e collaborazioni. Buona fortuna! Oggi per la rubrica del Bio Cristina Micheloni ci parla del ritorno in regione della barbabietola da zucchero, ovviamente bio, e dei problemi legati alla gestione delle malerbe che la infestano. Negli ultimi 3 anni si è aperta anche in Italia la possibilità di coltivare e valorizzare nel biologico le barbabietole da zucchero. Questo perché l'unica filiera saccarifera italiana sopravvissuta alla cosiddetta ristrutturazione del settore ha attivato una linea di prodotto biologico con trasformazione della materia prima nazionale. La nostra regione in passato aveva un settore bieticolo convenzionale, sviluppato, che però negli anni si è praticamente estinto, perdendo sia competenze che meccanizzazione. Ora alcuni agricoltori bio ci stanno riprovando, dovendo recuperare parte delle esperienze e competenze dissipate, ma anche cimentandosi con il metodo bio, che impone dei ripensamenti profondi nella gestione delle rotazioni, della fertilizzazione, nella gestione dei patogeni e parassiti e, nota di particolare criticità, la gestione non chimica delle infestanti. Ed infatti quello che risulta essere il principale fattore di difficoltà è proprio tenere pulita la coltura, che per sua natura non è mai competitiva nei confronti delle malerbe, tant'è che non copre la superficie nell'interfila nemmeno a pieno sviluppo. Che fare allora? Ovvio che senza le misure preventive, quale la rotazione, con magari l'inclusione dei sovesci con particolare attività soppressiva nei confronti delle infestanti, come un sorgo sudanese piuttosto che delle crucifere, e la preparazione del letto di semina in modo tale da portare il terreno ad un ottimo livello di pulizia, non se ne parla proprio di farcela. La stagione della semina non consente di fare delle false semine e quindi ci rimangono solo gli strumenti meccanici come la strigliatura nelle prime fasi e la sacchiatura in seguito. In realtà ci sono anche i primi risultati dell'adattamento di alcune macchine nate per l'orticoltura, che con qualche adattamento possono tornare utili anche qui. Si tratta di sarchiatrici a coltelli o lame verticali guidate da videocamere che hanno il compito di riconoscere le malerbe rispetto alla barbabietola, cosa che però al momento, ovvero allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, non è proprio semplicissimo, ma lascia ben sperare. Un'altra opzione, su cui alcuni ricercatori svizzeri stanno lavorando, avendo tratto ispirazione dalla pratica giapponese, è trapiantare le barbabietole invece che seminarle. Cosa che si può fare, ad esempio, con una trapiantatrice da tabacco, ma non solo. I vantaggi sono un rapido sviluppo iniziale, che permette un bel vantaggio sulle malerbe, ma anche un minor rischio legato alle limacce e all'altica, e, non da ultimo, un ciclo di coltivazione di 6-8 settimane più lungo, cosa che consente di ottenere maggiori produzioni, visto che la barbabietola bio è la prima ad essere raccolta per motivi di logistica della lavorazione. Ovvio che i costi di impianto sono ben più alti, ma se ciò fosse controbilanciato da minori interventi per il controllo delle malerbe, sia meccanici e spesso manuali, miglior stato fitosanitario della pianta e maggior resa ne varrebbe evidentemente la pena. Continuando sull'argomento della chiarificazione dei mosti, il professor Roberto Zironi si sofferma sui concetti di enologia sottrattiva ed enologia additiva. Come ho già ricordato nell'ultimo incontro, dalla metà degli anni 90 fino ad oggi, il mondo enologico è stato travolto da una vera e propria rivoluzione culturale, che ha visto il passaggio da un concetto di enologia sottrattiva a quello di enologia additiva. La filosofia sottrattiva intendeva eliminare tutto ciò che nel vino era potenzialmente instabile per favorire la conservazione, ma anche quello che era eccessivo da un punto di vista organolettico. L'arma principale dell'enologia sottrattiva sono le chiarifiche, che servono per appunto migliorare il vino a livello di limpidezza e filtrabilità e rimuovono le sostanze indesiderate in eccesso. Allo scopo di aumentare la stabilità del vino nel tempo, si abbattono però la maggior parte delle differenze varietali territoriali, rendendo il prodotto vino uniforme e anonimo. L'enologia conservativa o additiva è caratterizzata invece dalla volontà di mantenere per quanto possibile alcuni elementi costitutivi del vino, grazie all'apporto di altri componenti che ne impediscono la modifica o la separazione dal mezzo. Volendo usare una similitudine, potremmo dire che, data una superficie di legno ruvida, il falegname ha due strade per renderla liscia: levigare eliminando le creste in eccesso, oppure riempire le fossette con resine e stucchi. L'ossigeno stesso, precedentemente considerato come un nemico da cui tutelarsi in ogni possibile modo, oggi viene spesso considerato in chiave positiva, in quanto le diverse molecole del vino, una volta ritenute pericolose per la sua qualità e la sua stabilità, qualora associate ad una sapiente ed oculata gestione dell'ossigeno, possono evolversi in composti più complessi, acquisendo stabilità nel tempo e dando un aumento di struttura, morbidezza o complessità. Nella fase di cui ci stiamo occupando, cioè l'impedimento, due diversi approcci enologici possono trovare delle applicazioni. Per facilitare la comprensione consideriamo un esempio pratico. Abbiamo visto come per la produzione di vini bianchi a partire da uve rosse si può evidenziare il problema che le operazioni prefermentative comportano una dissoluzione di par di coloranti rossi. Come eliminare questi coloranti rossi? Due sono le strade possibili: un'enologia sottrattiva utilizzando dei chiarificanti quali il carbone, che però non è selettivo e quindi ci elimina anche parte dei precursori aromatici, oppure con la tecnica dell'iperossigenazione, che invece ci modifica la struttura degli antociani rendendoli incolori o debolmente colorati. In questo caso l'ossigeno non modifica la componente aromatica del mosto, quindi mantiene nel tempo le sue caratteristiche di qualità. Quali delle due tecniche possiamo adottare? Chiaramente, se l'uva ha del basso potenziale qualitativo possiamo tranquillamente utilizzare il carbone ancora oggi, ma se l'uva ha un elevato potenziale qualitativo, la tecnica di iperossigenazione è sicuramente quella da preferire. Sara Bosco inizia oggi una serie di contributi dedicati ai preparativi per chi vorrà cimentarsi con l'orto, partendo nella puntata di oggi dai terricci. Prima di riniziare la stagione orticola, in questi appuntamenti mi vorrei soffermare su come acquistare tutti i vari prodotti e strumenti necessari per l'orto. Come prima cosa bisogna considerare, soprattutto nel caso si disponga solo di un terrazzo o davanzale, la scelta del terriccio idoneo per impiegare nei vasi. Il terriccio più utilizzato è quello universale, che si presta ad ospitare un ampio numero di colture diverse, portando a dei risultati soddisfacenti. Spesso però, per ottenere dei risultati migliori, è bene impiegare dei terricci specifici alla fase di coltivazione o al tipo di pianta. In commercio troviamo i terricci da semina e quelli da ripicchettamento. Questi due differiscono per la grandezza delle componenti e per il livello di concimazione. Infatti il terriccio da semina si presenta fine e poco concimato, in quanto serve per ospitare il seme e le prime fasi di germinazione della plantula, con l'emissione delle prime radici e foglie. Al contrario, il terriccio da ripicchettamento è più grossolano e più concimato, in quanto la pianta resterà lì per l'allevamento fino alla fase di messa a dimora in campo. Alcune piante, come le acidofile, richiedono invece un terriccio specifico che rispecchi le loro esigenze di coltivazione e in questo caso avranno un pH più acido. Un aspetto importante da considerare nella scelta del substrato, nel caso non si tratti di piante acidofile, è la dimensione del vaso. Tanto più questo sarà grande, tanto più grossolano sarà il terriccio da impiegare. Il terriccio nel corso del tempo perde le sue caratteristiche peculiari e richiede una rigenerazione. È importante che venga conservato al riparo da fonti di calore e agenti climatici e venga impiegato in breve tempo dall'apertura del sacco. Nei vivai si trovano un vasto assortimento di terrici, perciò è importante ricercare quelli con le caratteristiche migliori per il nostro utilizzo. E non bisogna essere indirizzati sulla convenienza economica a discapito della qualità. Avete in casa dei belli e buoni polli ruspanti? Oggi Roberto Zotter vi insegna come preparare dei succulenti tramezzini al pollo, partendo dalla storia del tramezzino. Si narra che nel 1700 l'inglese John Montagu, quarto conte di Sandwich, appassionato giocatore di carte, durante una partita per non cessare il gioco, ordinò dell'arrosto tra due fette di pane imburrate e inconsapevolmente inventò il sandwich. I suoi commensali fecero la stessa cosa e il panino diventò una realtà. Nei primi anni dell'Ottocento, poi, Anne Mary Stanhope, duchessa di Bedford, stanca di dover aspettare la cena per mangiare qualcosa, decise di accompagnare al tradizionale tè delle cinque dei piccoli sandwich salati, pane bianco senza crosta, imburrato e ripieno di cetriolo. Fu così che iniziò a diffondersi la pratica dei tea sandwiches, farciti poi anche con salumi e formaggi. Si deve però ad Angela De Michelis Nebbiolo, del caffè Mulassano di Torino, l'introduzione in Italia nel 1926 di questi paninetti da tè. E un cliente speciale, Gabriele D'Annunzio, li battezzò italianamente tramezzini, letteralmente che stanno nel mezzo, per rimandare a qualcosa di sfizioso da consumare tra un pasto e l'altro. Nel 1936 la rivista La Cucina Italiana riporta la prima ricetta ufficiale del tramezzino, ma è a Venezia che El Tramezin diventa il protagonista degli aperitivi accompagnato da spritz o da ombre. Il tramezzino veneziano, moderno street food, è diverso sia dal sandwich inglese che dall'intramezzo amato da Gabriele D'Annunzio. Si tratta di morbido pane al latte senza crosta, tagliato a triangolo, con un generoso ripieno disposto nella parte centrale e i bordi vengono leggermente schiacciati assumendo la tipica forma bombata. La peculiarità inoltre è data dall'umidità del pane. Questa è conferita da un tovagliolo umido che mantiene il pane morbido. Tra i diversi gusti, quello che preferisco è il tramezzino al pollo e ricordo che i migliori, quasi 50 anni fa, erano serviti a Udine al bar all'angolo tra via Menin e via Vittorio Veneto. Per realizzare l'insalata di pollo, che è perfetta sia per farcire tramezzini, sia per essere servita come elegante antipasto a tavola, consiglio di acquistare del pollo arrosto, che più gustoso di quello bollito e più pratico, di levargli la pelle, di disossarlo e tagliarlo a striscioline. Aggiungete poi del gambo di sedano, dei cetriolini sott'aceto, del formaggio montaggio fresco e, per dare leggerezza, anche la parte bianca croccante delle foglie di insalata, tutti sempre finemente tagliati. Condite con abbondante maionese fatta in casa, di cui vi darò prossimamente la ricetta, non senza una generosa macinata di pepe. Buon aperitivo e buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 26,90 e 27,10 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo, peso specifico, 62,65, tra 28,30 e 28,70. Il frumento, tra 30,80 e 31,30. E la soia, tra 59 e 59,50. Rispetto a un anno fa, il mais è aumentato di 8,60 euro e la soia di 14 euro il quintale. Passando ai bovini del macello, si evidenzia una stazionarietà delle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,80 e 3,10 euro il chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 2 e 2,70. Mercato stazionario oppure nel settore vitae da ristallo, con le quotazioni che accertano i blu belga maschi quotati tra 6,6 e 50 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 4,70, i frisoni tra 1,60 e 1,90 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Nel comparto suinicolo si rileva una lieve ripresa del mercato dei lattonzoli di 30 kg che vengono pagati franco partenza a 2,85 euro al chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati a 1,48. In buona evidenza gli listini dei prodotti caseari con quotazioni attive. Il montaggio di 90 giorni viene pagato tra 6,30 e 6,60 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,40 e 7,70. Lo stagionato 12-15 mesi tra 8-8 e 40. Miglioramento anche nel prezzo del latte crudo di vacca francostalla di origine Friuli Venezia Giulia, dove la commissione camerale di Pordenone Udine lo ha quotato tra 39-39,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Mercato stagnante nel settore dei foraggi, dove il fieno Mazengo di pianura viene quotato da 10,50 a 11 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 16,50 a 17 euro, mentre la paglia di cereali pressata di stagione oscilla tra 9,50 e 10 euro il quintale. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora scambi attivi con prezzi in salita. I polli a terra vengono pagati tra 1,64 e 1,66 euro il chilo IVA esclusa, le anatre tra 3,26 e 3,30, i tacchini maschi tra 2,10 e 2,12, le faraone tra 3,27 e 3,37 e le uova da allevamenti a terra oltre 73 grammi a 17,60 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Si chiude un mese di gennaio dominato dall'anticiclone atlantico, con aria mite presente spesso sull'Europa occidentale e sull'area alpina o da correnti settentrionali, con una sola perturbazione significativa al giorno 5, cui sono da attribuire praticamente tutte le precipitazioni del mese, che perciò sono state ovunque sotto la norma, ad eccezione delle prealpi Giulie, dove si sono superati anche i 200 mm. La temperatura media mensile a livello globale è stata nella norma. Per contro, ha fatto più caldo del solito in alta montagna, oltre i 1000 metri circa, a causa delle masse d'aria miti dell'anticiclone atlantico o dei venti da nord-ovest, anch'essi piuttosto miti tra i 1000 e 1500 metri di quota. Così località come Monte Zoncolan, Formi di Sopra, Piancavallo, Monte Lussari superano la media di circa 1 o 2 gradi. La lunga serie di giornate serene della seconda e terza decade hanno determinato una marcata escursione termica in pianura, dove si è passati spesso da minime di circa 3 gradi sotto lo zero a massime di 10 gradi. Da rimarcare il fatto che seppur in presenza di masse d'aria miti per il periodo in quota e di temperature massime relativamente alte, le lunghe notti serene hanno consentito un prolungato raffreddamento per irraggiamento in pianura e nei fondivalle, che ha permesso di mantenere temperature medie nella norma. La temperatura del mare è stata anch'essa nella norma. Passando alle previsioni per la settimana entrante, si osserva ancora il prevalere di correnti settentrionali in quota e, nella seconda parte della settimana, dell'anticiclone atlantico, cui non vi saranno variazioni significative. Lunedì passerà un fronte freddo che però ha direzione nord-sud e quindi ben scarsi effetti. Domani, pertanto, avremo cielo da variabile nuvoloso, con temperature minime sui meno 2 in pianura e massime di 7-8 gradi. Sulla costa le minime saranno ovviamente sopra lo zero. Martedì cielo sereno con gelate di notte in pianura e massime sui 10 gradi circa. Sui monti, vento da nord-ovest in quota. Mercoledì cielo poco nuvoloso, sempre con venti in quota da nord-ovest. Non è escluso qualche fiocco di neve sulla fascia alpina, dove il cielo sarà variabile. Giovedì e venerdì tempo stabile. Si arriverà quindi a 30 giorni consecutivi senza precipitazioni significative. Anche dopo il 5 e almeno fino al 10 non sembrano esserci variazioni nel tempo. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Febrarut, pies di dut, ovvero febbraietto, nel senso di mese piccolo, corto, peggiore comunque di tutti, in particolar modo per le temperature. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.